Un saluto dal vostro Richard Benson, state ascoltando Radio Forte, questa è 100 celle Avengers, un pollo! E basta, ma che stai a fare? Che non vedi perché non sono più quelli che cerchi veramente. Nelle puntate precedenti era 2020. Aia, che era? Un'altra cosa importante. Ah, mazza che forza, oh. Ma che c'è qualcuno là? Un'offerta allo storico. Port forwarding o UPNP. Ti ho trovato. Oh, e te che cazzo? Richiede tempo. Mo? No, non posso star così. Ma io la grottalina me la so presa, sono i 5. Chiedo scusa. Verifica connessione di rete e alimentazione. Ma che stai a dì? No, l'hai detto tu. Ma giusto un pochetto, eh. Cazzo, non capisco. Ma ti rendi conto che casino c'è qua? Ah, che vaffanculo. A me serve a chiedere i vostri artisti. Non ti piacerà. Che fai? Che stai a fare? È passato troppo tempo. Che è quello? Oh. Abbiamo appena iniziato. Bello, complimenti, hai montato tu? Cosa? Sto riassunto ad minchiam. Cosa vorrebbe essere? Chiedo scusa. Ma non si capisce niente. Non capisco. Il mio generatore casuale di riassunti si è inceppato. Generatore casuale di riassunti. Avaria. Avaria. Sì, vabbè, avaria. Questo è ottobre rosso. Chiedo scusa. Questo è un bug, si dice così oggi. Semplice, sintetico. Non capisco. E ricordati che la rivoluzione dobbiamo farla anche e soprattutto nella regia. Nel modo di girare. Veloce, moderno, quindi osa, zoom, sperimenta, divertiti. Falla da paura, René. Stacco. Queste volte le monti tutte. Tempo un quarto d'ora e abbiamo fatto. Ma mi stai a sbagliare tutto, non mi stai a capire mezzo. Sta cosa funziona nel video di montare a cazzo di cane. Nell'audio ti devi far capire un po' meglio, non si coglie. Stiamo alla radio. Dovrò procedere con lo spiegone. No, lo spiegone no, ti prego. Ce la posso fare. Ma poi non era male, dai. Non capisco. Vabbè, ho capito. Ma io penso che abbiano capito tutti che tu sei Iron Man, che sei atterrato nel mio balcone la notte del terremoto a Roma, che tutti si pensavano che era il terremoto, invece eri tu, Iron Man, che atterravi nel mio balcone per aiutarmi a salvare la scuola di musica del Forte. Ecco, abbiamo fatto lo spiegone. Però ripariamo sto coso, per favore, che sto asmatico. Chiedo scusa. Chiedo scusa. Allora, a proposito di chiedo scusa, l'altra volta mi hai cazziato perché ho parlato troppo presto dell'ensemble di voci, del maestro Stan. Non posso ancora rivelarti tutto. Ah, dai. Armonato è un progetto classificato. Cala. La loro sicurezza su Geomus è a rischio. Sempre drammatico. I droni della latenza li hanno attaccati. Do la triade, basso, tenore, contralto. 3 e 4. Queste 100 celle Avengers, don't worry, be maestro ha portato gli studenti in salvo su Jitsi. La vicina luna boscosa. Una video chat ben protetta. Oddio, l'ennesima chat, che poi ce l'ho tutte. Ma poi a me, lo sai qual è il problema? È che ste emotività, sta mancanza, sta voglia di toccasse, sto mi manchi, vediamo se nel quadratino facciamo dei video, ma rotto il cazzo. Giorgi, come sono i miei amici? Giorgi. Sei un mostro con ste tecniche subliminali. Dai, fammi sentire. Rimanda indietro. Come again. La sicurezza in Jitsi è dovuta alla cifratura che avviene tra i singoli computer e il server e dal fatto che le stanze sono effimere, scompaiono quando non vengono utilizzate e vengono ricreate all'occorrenza. Per avere maggior privacy però dobbiamo stare attenti a scegliere un nome della stanza difficile da indovinare, oppure possiamo lasciare che il server scelga per noi il nome della stanza. In aggiunta, una volta creata la stanza si può impostare una password dal menu, oppure se si usa una versione recente di Chrome si può usare la funzione con end-to-end encryption per impostare una chiave di cifratura. Tutti questi parametri vanno poi comunicati a tutti i partecipanti della sessione. Giorgi, ti sento così vicino. Giorgi, Imola, Taranto, Savona, Imola.org. E va bene, mostro digitale, ma a parte essere sicura, che ci avrà di speciale, Gizzi? Accetta due ingressi audio. No, giura. Standard irrinunciabili, mediamente. Certezze che che ti sei messo in testa? Cosa? Che cazzo è mo quello nella mia vasca? Quello è Aquaman. Aquaman? Sì, vabbè, Aquaman. È arrivato mentre dormivi. Ma Aquaman era biondino, con la tutina arancione, il cavalluccio, questo è metallaro. È vero, non risulta in nessuno dei tuoi database adolescenziali. Per questo l'ho confinato nella sua zona di comfort, in attesa di giudizio. Quella sarebbe la mia zona di comfort. Mo manco quando piscio posso star da solo. Senti, io c'ho bisogno della mia intimità. Dai. Qua se zompa da una follia all'altra. Non fare così. So io come risollevarti. Ma che sai, Sasa? Leggiamo le letterine. Letterine? De chi? Degli ascoltatori. Ma che stai a dire? Sono arrivate le letterine dopo una puntata? Sì. Ma da paura, non ci posso credere. E che dicono? Chiedono consigli per usare Jebulus. No dai, non ci credo. E Reaper, ricordi? No, ma te rendi conto? La potenza del mezzo. Leggi, leggi, leggi, leggi, sono emozionato, calcola, sto a tremà. Ci scrive Francesco dalla provincia di Matera. Matera, addirittura. Ah già che siamo web, quindi arriviamo ovunque. Leggi, leggi, leggi, leggi. Sono un chitarrista, ma sono anche cantante. Come posso collegarmi a Jebulus con il mio strumento? Questa la so, questa la so, questa è facile, eh. Jebulus accetta due ingressi e ti permette di sceglierli dal menu Settings, dove oltre a indicare la tua scheda esterna come motore dell'audio, potrai decidere quali dei tuoi input vuoi che vengano usati su Jebulus come canale sinistro e destro. Come sono andato? Come sono andato? Hai appreso bene. Sempre ste frasi fatte. Dai, dai, un'altra che spacchiamo. Ci scrive Jürgensen da Benevento. Jürgensen. Che nome curioso. Sarà di origine... Boh, vabbè, come dico, sbaglio. E che ci dici, Jürgensen? È possibile utilizzare la scheda audio integrata del mio computer? Caro Jürgensen, no. Lo ripetiamo, se fossi stato attento lo sapresti. Purtroppo le schede audio integrate nei computer hanno una latenza importante, cioè a dire impiegano molto tempo a far entrare ed uscire il suono, producendo per chi parla e si riascolta un ritardo con il quale è impossibile performare. In una situazione in cui ci si gioca tutto sui millisecondi con la rete web, partiresti svantaggiato, sommandoci una problematica di latenza locale. Mazza oh! Dai dai dai dai dai dai dai dai dai! Che poi insomma noi parliamo di letterine, ma ovviamente questa immagine anni 80 è un po' datata, quindi insomma chiaramente si tratta di mail che arrivano al nostro Iron Man e noi rispondiamo. Dai dai dai dai dai dai! Fomento! Ci scrive Joachim da Birmingham. Da Birmingham. Se no un'altra scusa. Paola da Sapporo. E che dice Paolina? Ciao ragazzi, complimenti per la tua... Ma fai vedere queste letterine per favore? No. Me fai vedere queste letterine per favore? Non capisco. Me fai vedere queste letterine per favore? No, chiedo scusa. Perché se qui c'è un inghippo io mi arrabbio in diretta proprio. C'è un altro che una truffa. Guardami un po'. Io non mi arrabbierò. Non capisco. Guardami in faccia. Per caso hai un generatore casuale di letterine? Sì. Ma sei una merda! Dai, non fare e così. Io che ci stavo pure a credere, a rispondere tutto fomentato, questi cazzo... Dai, non fare così. Sei un ciarlatano, sei. Dai, leggiamo una letterina di Jennifer da Cusago. E poi almeno aggiusta lo sto coso, no? Karl Heinz da Toru. Ma chi è il nazista rifugiato? Dai, mamma. Dai, su. Basta, io me ne vado. Vaffanculo. Dai, non fare così. Nicoletta da Kansas City. Thank you. Era Giulì. Questi sono i ragazzi della scuola. Direttamente da Reaper. Volevo farmi perdonare per le letterine. Vecchio puzzone. Vuoi saperne di più? Che senso? Vuoi che ti prenda sotto la mia cappella? Dove sono? Dove sei? Questo è Reaper. Che cos'è quest'ambiente grafico inquietante? In effetti è diverso dagli altri sequencer audio MIDI. Ma è scritto in Klingon. I suoi creatori non sembrano aver mai visto un mixer. In compenso è più leggero degli altri e ha molte skin. Può assumere la forma del sequencer che più ti aggrada. Sono nel vuoto. Sono nel vuoto. Fai un doppio clic nel vuoto per creare la tua prima traccia. Mentre ti sforzi andrò a cercare nelle tue cartelle qualcosa da importare. Dove vai? Ste metafore vanno gestite. Maledetto. Dai, un po' di fantasia. Doppio clic nel vuoto. Hop. Ecco. Ah no, doppio. Hop. Creare traccia numero 1. Questa voce? Alexa, sei tu? Ti ringrazio. Ma io pensavo che tu fossi morta. Mi spiace, ho dei dubbi in merito. Iron Man ci ha imprigionata qui, in questo posto, sessione senza nome. Che tristezza. Ma Iron Man non può essere stato lui. Iron Man è un genio malvagio. Iron Man non può averlo fatto. Lui è... Mi spiace, ho dei dubbi in merito. Ma non è possibile. Sono ancora tanto cosa che devi sapere. E tutti così mi dite però. Ti vuole ingannare. Al fine di causare un mutamento di regime. Ma come vuole parli? Indurre in errore mediante imbrogli, raggiri e simile. Vuole sabotare scuola di musica. Vuole sabotare scuola Ma di come musica parli? Sabotare scuola di musica sabotare scuola Il di generatore musica generatore casuale. Ma allora di ragioni ne ha decisamente tante. Io non ti credo. Ho cercato di chiamare aiuto, ma Iron Man lo ha scoperto. Ma come parli? Ha imprigionato Aquaman, l'unico in grado di aiutare. Aquaman? Aquaman? Tu hai chiamato quel... Per quale ragione? Spesso le persone non sono come appaiono a prima vista. Sì. Anzi, molte volte sono l'opposto. Aquaman è un buono. Qui per sottrarre ad un pericolo, per noi. Aquaman ha origine dal mitico regno di Atlantide. E van con lui le torme. Davvero? Trovo che ti somiglia molto. Trovi? Beh, un po', sì, il fascino rocker. È lui. Cazzo, sta tornando. Fra poco, entro breve tempo. Che facciamo? Nascondere, traccia, nascondere, traccia, nascondere, traccia. Sì, come faccio? Il pulsante destro del mouse è riservato al menu contestuale. Tasto destro. Presto, nascondere. Tasto destro. Nascondere. Nascondi traccia. Nascondere. Tasto destro, nascondi traccia. Perfetto. Come andiamo qui? Si fanno progressi? Sì, capitano! C'è bisogno di te dall'altra parte. Sì, eccomi! Non trovo niente. Subito, capitano, andiamo! C'è troppo caos. Pronti! Ho bisogno di te per indicizzare le cartelle. Vieni. Subito, capitano! A me piacciono molto le sottocartelle, capitano. Andiamo! Andiamo, l'accompagno. Un discorso d'incoraggiamento? Pietoso. Il tuo piano malvagio, completo in ogni suo elemento. Cosa può esserci più di un re? Crede a tutto e da tutti. Ehi, che fai? Noi, quando una buona volta finirà questa breve luce, dobbiamo dormire un'unica notte eterna. Tu sei uno schianto. Cazzo di metafore! Ma quanto pesa? 70 megabyte. Tua. Dove metto? Nel vuoto. Wow! Ecco. Si crea una traccia automaticamente? Sei desueto. I software audio ormai importano qualsiasi formato semplicemente trascinandolo. Ora crea una nuova traccia per incidere una voce sopra la base. Fatto. Ecco, sì. Bravo. Armo la traccia come ti piace armare le cose a te. Dovrai scegliere l'ingresso MIC 1. Fatto. Menu a tendina, MIC 1. Armo solo la traccia dove devo registrare e... E mo che dico? Che dico? Oh, che dico? A caso, stai ascoltando Radio Forte. Questo è Certo Celle Avenger. Ascoltando Radio Forte, e questo è Centocelle Avengers. Questa trasmissione è un patchwork di musica passata, presente e futura, tutta orbitante attorno ai progetti del Forte. Dalla scuola di musica performance live, passando per un po' di sana follia che non guasta mai. Centocelle Avengers, la musica si difende. Ecco qua, il generatore casuale dovrebbe essere a posto. Proviamo? Iron Man. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Mescola random. Si, mi, do, la, re, sol, fa. Giusto. A posto, come nuovo. Chissà cosa è successo. Chissà che è successo, eh? Molto bene. Ora possiamo tornare a... Ma che succede? Mi dispiace. Non capisco. Perché Iron Man? Sono bloccato. Non puoi liberarti. Cosa mi hai fatto? Questo è gaffa vero. Gaffa vero. Ora. È vostro. È il momento. Vai, amico! Voi. Perché mi hai fatto questo? Aquaman. C'è il trono. Alexa. Voi. Noi siamo arrivati appena in tempo. Traditore. Era pazzesco. Iron Man non è più un problema. Devo pisciarci sopra. Mi fidavo di te. Ti stanno ingannando. Non crederti. E perché dovrebbe credere a te con le tue letterine? Ah. Che ridere. Tu non hai poteri, senza offesa. Ora basta. Aspetta, il computer no. Buoni. Ehi. Dai, no. Cazzo! No! La chitarra! La chitarra! No, dai, vabbè! No! Occhio! Si è liberato dal gaffavero! Il piano! Sta scappando! Maledetto! Addio! Sei più stupido di quanto pensassi! Ah sì? E tu? E tu sei un... Iron Man, perché? Lui forse lavora per il nemico, non lo sappiamo. Perché a me? Non ti preoccupare, ora ci siamo noi. Riproduco brano da saggio Scuola di Musica febbraio 2020. Perché? debole per te. Anche se non sei più sola, perché sola non sai stare. E vedi che dividersi nella vita sia normale. La mia memoria scivola, mi ricordo limpida la trasmissione dei pensieri. Qualunque cosa pensassimo in due poteva succedere. Cos'è successo? Aspettami, oppure dimenticami. Ci rivediamo dopo quasi 5 anni. Descrizione di un attimo per me, ai ai ai ai, come sempre sei, l'emozione fortissima. Diventata pazza, ma io so che sei normale. Chiedi di partire adesso, perché numeri e futuro non ti fanno preoccupare. Vorrei poterti credere, sarebbe molto più facile incontrarci nei pensieri, stessi come se fossimo sospesi ancora nell'attimo in cui signor Monocchio, sono io, si ricorda? Scusi, che qua ci stanno i Marioli qua, i Marioli ci stanno. Sono venuto a vedere come va. Come va? Come va? La cassa tutta ruzzoluta. Guarda qua, questi sì. Sono i tubi di scarico del bagno. Quindi quanto? Cioè, qua sono 20 anni che per aprire sì. C'è dovuto fare un casino. E ora mi tocca andare a prendere la chiave giusta, tornare, aprire, salire, andare, scendere, aprire, tornare. Ci ho perso tutta la giornata, praticamente. Ho perso tutta la giornata, ma lo lascia. E chi me lascia qua? Ma guarda tu, se la miseriaccia straccia, proprio doveva lasciare. E me lascia qua. Vabbè. Guarda che roba. Aspetta un po'. Ah.

come hai chiamato? Mansman. Il male ha molti nomi. Tipo Kal-El? Più o meno. Iron Man, mi dispiace, perdonami. Non dovevo dubitare. Non preoccuparti. Sono programmato per sopportare la tua diffidenza cronica. Ho fatto io questo? Sì, perché non ti fidavi. Paradosso. Senti, ma mo chi mette a posto? Ora devo andare. No, che stai a dire? No, fa scemo. Mi dispiace. No, che stai a dire? Fa scemo, dai. La oh. Scuola ha bisogno di me. Guarda che casino, dai. Ti porto le cose. No, no, ma che cazzo. Vado. Ma manco il letto sto a trovare, manco il letto trovo. Ti porto le calzettine. Il gatto, dov'è il gatto? Dov'è? Apriamo una diretta. Va, va. Te e chi me t'ha mannato? Sigla. Ad un certo punto sento sulla pista d'atterraggio mi saluta un uomo e mio papà. Sto partendo per lo spazio, riuscirò a capire meglio il senso quando non sarò più qua. Io sono un missile, ho sfiorato più di mille volte l'atmosfera ed ora sono inutile, irraggiungibile. Io sono inutile, ho sfiorato più di mille volte l'atmosfera ed ora sono un missile irraggiungibile.